queste quattro righe è significativa proprio di tutto, insomma, colonialismo e fascismo. Riapparve l'impero sui colli fatali di Roma e il presente, che è quello in cui tuttora, ciao Giulia, ciao, in cui tuttora quando viene fatto eccetera viene risposto l'anno 14° dell'era fascista. Quindi insomma proprio significativo anche il fatto che là davanti c'è il monumento a tutti di Piazza Tasso, fra cui tre ragazzini, quando fu bombardata dalle truppe naziste durante la liberazione di Firenze. Però nello stesso momento rimane questo un altro manifesto del periodo fascista. E quindi insomma sostanzialmente cioè, è proprio tutta la retorica, no? Perché si parla con le fatali di Roma, quindi il riferimento all'impero romano, insomma, l'impero romano d'inizio epoca di Cristo, insomma, no? Cioè l'impero romano degli anni 150, del periodo cristiano, insomma. E quindi cioè, questo collegamento per giustificare diciamo, l'invasione, l'espansione dell'Italia, e poi anche proprio le parole scelte oltre all'errore, e l'anno 14° dell'era fascista, con il presente finale che appunto sta proprio a significare il loro modo di salutare i bastardi che muoiono sostanzialmente. Tra l'altro non è il primo caso in cui ci sono questo è un caso in cui ci sono monumenti e targhe che rappresentano due volti diversi, diciamo, della storia italiana. C'è l'obelisco in Piazza dell'Unità d'Italia, in cui tutti gli anni viene portato il 2 giugno, non so se anche il 25 aprile, la corona all'oro ai caduti. In realtà sopra c'è proprio il riferimento e il solito onore ai caduti a Dogale, cioè ai caduti della prima guerra coloniale italiana. E quindi insomma, cioè, proprio il sintomo di un rimosso sostanzialmente, in cui sembra che tutti i caduti siano uguali e che invece non lo sono assolutamente uguali, insomma.